pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una poesia di Franca Chiricò. Ho avuto la prova. Beh, almeno ho avuto la prova, che conto meno di zero. Basta una gioia nuova, una bella notizia ed io finisco nei saldi e diventa ogni cosa più importante di ciò che io rappresento. Di quello che ti posso dare io. Risparmiami le tue frasi di circostanza, che marcano soltanto la distanza. Confidenza no, vero. Un po' di affetto, no, niente. Ma della tua cortesia provo ormai solo stanchezza, neppure più delusione né amarezza. Risparmiati questo impegno, si sente quanto ti grava, e lasciami in solitudine a fissare l'amico schermo azzurrino e da piangere.